La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 35 secondi in diretta qui dagli studi della Radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda l'indirizzo come sempre, come tutti i giorni, la versione di Oscar @radio24.it per tornare, appena si sarà un po' allentata la tensione per quello che è accaduto a Parigi, e non credo che purtroppo ci sarà breve tempo perché si allenti, perché avete capito che stiamo andando verso uno scenario comunque di guerra, anche se l'Italia non parteciperà, ci torneremo nel corso della trasmissione. Andiamo subito ai due argomenti che sono la novità di giornata sul fronte europeo, che riguardano l'Italia, e capirete perché vi faccio poi una domanda dopo averli sintetizzati, poi li spiego un po' meglio, vi presento l'ospite, ma intanto poi arrivo alla telefonata, se volete chiamarci all'800 24 00 24. Quali sono le due novità di giornata? La prima riguarda il giudizio della Commissione europea nei confronti delle leggi di stabilità, quindi anche della legge di stabilità italiana. Allora, il giudizio è stata una sorpresa, non tanto per noi giornalisti, oppure per me che sono critico, che ci occupiamo di queste cose, quanto perché il governo aveva da due mesi fatto intendere, fatto scrivere e dichiarato che in realtà l'aumento del deficit rispetto al previsto inglobato nella legge di stabilità 2016 era già stato contrattato con l'Unione Europea fino al 2,2% di deficit l'anno prossimo, tranne uno 0,2 in più che veniva richiesto per la cosiddetta clausola migranti. Sorpresa, non è così. Noi meno sorpresi, giornalisti critici, però in realtà ufficialmente non è così, perché la Commissione europea non ha promosso la legge di stabilità, cioè non l'ha giudicata conforme al patto di stabilità e di crescita. Ci sono quattro tipi di giudizio che la Commissione europea, quando esamina le leggi di stabilità, può dare. Il primo è quello di conforme, il secondo ampiamente conforme con qualche osservazione, il terzo a rischio di non essere conforme, e poi il quarto è la bocciatura piena non conforme. Ecco, nei confronti della legge di stabilità 2016 del governo Renzi viene dato un giudizio del terzo tipo, a rischio di non conformità, e il giudizio viene riservato ad aprile dell'anno prossimo. Vedremo perché in dettaglio, ve lo spiego tra poco, e questa è la prima novità. Sorpresa non positiva per il governo, anche se il governo ha subito poi replicato con una dichiarazione ufficiale del ministro dell'economia e delle finanze che dice no, è pienamente conforme alla regola europea. Vedremo, ma capiremo perché la Commissione europea obietta alla legge di stabilità di Renzi. Seconda novità, e questa è collegata alla lotta al terrorismo. Immediatamente accolta per bocca del commissario europeo Moscovici agli affari economici la richiesta francese, anzi la dichiarazione unilaterale francese fatta ieri da Hollande e ribadita questa mattina dal premier Valls francese, che ha detto la Francia si riserva per le spese di sicurezza e militari per tutte le azioni contro l'ISIS e contro il terrorismo di fare spesa pubblica in più, sforando ovviamente il patto di stabilità e di crescita. Immediatamente il commissario per gli affari economici ha dato l'ok, ha detto ovviamente la Commissione europea di fronte a questa primaria emergenza internazionale si comporterà con grande accondiscendenza. Non ha usato il termine accondiscendenza, ma il termine era chiaro, disco verde. E allora la questione diventa se adesso le spese per la difesa e la sicurezza diventano, per così dire, il moltiplicatore della crescita dell'economia europea di fronte alla crescita mondiale che frena. La domanda che vi faccio è: ma voi vi sentite sicuri con i livelli di difesa e sicurezza che abbiamo nel nostro paese? Secondo voi spendiamo troppo poco e si potrebbe fare molto di più? Perché vi dico questo? Vi chiedo di intervenire dandoci la vostra opinione, perché stamattina, per esempio, in un'altra capitale europea, a Londra, il cancelliere dello scacchiere britannico George Osborne, in una conferenza stampa appositamente dedicata al tema e incontrando, sia pure non facendo riprendere dalle televisioni, i vertici dei servizi segreti britannici, ha annunciato da un giorno all'altro l'assunzione per il 2016 di 1900 agenti di intelligence nuovi per l'MI5 e l'MI6, l'aumento della spesa di 2 miliardi di sterline per questo, e l'innalzamento della spesa anche per l'equivalente dell'NSA americana, cioè dell'ufficio degli servizi centralizzati britannici che si occupano della sicurezza tecnologica e delle intercettazioni e decrittazioni per respingere gli attacchi telematici e informatici alla Gran Bretagna e per sorvegliare anche le centrali e i possibili flussi relativi al terrorismo attraverso i social networks, la rete e così via. E anche qua altri 3,2 miliardi di sterline. Quindi la domanda è: ma noi facciamo abbastanza rispetto alle decine di milioni in più che il governo annuncia in legge di stabilità? Soprattutto abbiamo strumenti tecnologici sufficientemente raffinati nei nostri servizi per affrontare questa sfida nuova? E ancora, spendiamo quanto gli altri, come gli altri, più degli altri o meglio degli altri su questa singola posta che diventa dopo Parigi ancora più importante? Ecco, perché veniamo all'ultimo punto prima di passare la voce al nostro ospite, veniamo promossi con riserva dalla Commissione Europea. In buona sostanza per un argomento di fondo, cioè la Commissione Europea dice: no, i vostri impegni erano diversi, voi dovevate procedere a una diminuzione del deficit corretto per il ciclo e il vostro impegno era di uno 0,1, non fate caso al 2,2 totale del deficit annunciato dal governo, quello corretto per il ciclo si fa depurando dagli effetti economici negativi dell'andamento del ciclo. Invece nella vostra legge di stabilità voi dite che quello strutturale corretto per il ciclo è 0,5, quindi balla in buona sostanza uno 0,4% di PIL. Questo 0,4% di PIL su cui la Commissione Europea aspetta di giudicare prima di chiederci di fare altre misure per 5 miliardi, quindi è l'equivalente della prima bocciatura esplicita che viene da Bruxelles, perché Bruxelles dice: no, l'abolizione della tassazione prima casa, i mutasi, non rientra nelle cose per cui voi potete chiedere le clausole, l'applicazione delle clausole di flessibilità per gli investimenti, non potete farlo. Questo è il nostro, se lo volete fare fatelo, però a quel punto dovete ridurre per un equivalente ammontare il deficit. Per il governo è una brutta tegola che l'abolizione della TASI non sia in linea con un fisco più efficiente. Poi ci sono delle osservazioni su altri provvedimenti, tipo l'attuazione della delega fiscale, ma l'osservazione di fondo è quella che l'Italia non rispetta affatto la regola del debito. Mentre il ministro dell'economia sostiene che con un'interpretazione dinamica del bilancio italiano l'Italia non sta violando la regola del debito, la Commissione Europea mette per iscritto, dice: no, guardate, da quello che capiamo noi, voi il rispetto della regola del debito l'avete rinviato al 2017 e forse al 2018 e non siamo affatto convinti che col rallentamento dell'economia internazionale e la bassa inflazione che c'è, voi possiate essere promossi ad aprile. Quindi un verdetto abbastanza pesante. Allora, per parlare di entrambe le faccende abbiamo un collega che appunto segue sia le questioni di finanza pubblica e quindi il giudizio dell'Europa che aveva preanticipato stamattina scrivendo sul Messaggero e che poi nella mattinata ha pubblicato proprio dei dati comparati su quanto l'Italia rispetto agli altri paesi europei spendono di sicurezza, polizia e tutto ciò che è connesso alla sicurezza. Luca Cifoni, grazie di essere con noi collegato. Luca. Ciao Oscar. Allora, mi dai una tua prima impressione avendo visto il giudizio della Commissione Europea sulla legge di stabilità, come lo consideri? A parte la sorpresa, ma è semplicemente un caveat che si risolve con un po' di chiacchiere o metterà in difficoltà il governo? Ma dunque, sicuramente non è la promozione piena che forse qualcuno si attendeva. Allo stesso tempo, secondo me, è anche una valutazione che comunque lascia il tempo per un ulteriore margine di trattativa e soprattutto per andare a vedere che cosa farà il nostro Paese. È significativo che non ci sia necessariamente una richiesta di provvedimenti aggiuntivi, come era invece era successo l'anno scorso, di ulteriori, diciamo, misure di riduzione del deficit, quanto la volontà di valutare, ad esempio, se lo spazio di flessibilità che corrisponde alla clausola degli investimenti sarà utilizzato per effettivi e produttivi investimenti piuttosto che per altro. Che in teoria la spesa in conto capitale nella legge di stabilità diminuisce, non aumenta. E infatti lì c'era un problema che a rigore questa clausola per gli investimenti avrebbe dovuto diciamo finanziare investimenti aggiuntivi Poi di questa parola aggiuntivi è stata data un'interpretazione, diciamo, tra le righe dei trattati un po' elastica, e adesso probabilmente la Commissione vuole un po' capire effettivamente che cosa ci facciamo con questi soldi. E in quanto ai mutasi, dove c'è un giudizio così secco, tu che pensi? Perché lì il governo è chiaro, l'ha già detto mille volte, non farà mai marcia indietro, e quindi? Ma lì quella da una parte è una posizione standard della Commissione europea, quella di dire che la tassazione deve essere piuttosto alleggerita sul fronte del lavoro, della produzione, piuttosto che su quello degli immobili. È chiaro che il governo dovrà dimostrare che non finanzia l'una cosa con l'altra, e quindi la riduzione fiscale sulla prima casa se la fa per conto suo, con le proprie misure, e la flessibilità invece viene destinata ad altro. Ecco, cercherà il governo di andare a dimostrare questo, immagino. Quindi tu non ti aspetti in realtà che Renzi e Padoan siano seriamente preoccupati da queste osservazioni? Beh, mi aspetto, diciamo, constato che la Commissione non la fa passare così liscia, diciamo, la cosa, e vuole tenere il nostro paese un pochino sotto osservazione. Forse anche perché bisognerà vedere nei prossimi mesi qual è l'effetto vero del rallentamento ulteriore in corso nell'economia mondiale. Esattamente, Oscar, perché tra, diciamo, da qui a primavera anche il quadro potrebbe essere non, diciamo, un po' diverso da quello attuale, quindi in quella situazione anche il giudizio della UE potrebbe tenerne conto. Perché ricordiamo ai nostri ascoltatori, Giappone è rientrato in recessione, il 3 dicembre a vedere che cosa decide la Fed, se rialza i tassi. Tenete conto che la crisi dei paesi emergenti, che hanno moltissimo debito denominato in dollari, col dollaro che si appressa, rischia di diventare una bomba finanziaria ancora più pesante, oltre al danno del commercio mondiale, che quest'anno cresce solo il 2%. Quindi ci sono, perché dice qualcuno, probabilmente con ragione, che già si è visto nei dati del terzo trimestre del prodotto, non solo quello tedesco, come era ovvio, ma di riflesso in misura minore, ma comunque questo aspetto si è visto anche nel PIL italiano, che è andato un po' meno bene di quanto si attendesse. Perché la prima stima dell'Istat, lo ricordiamo, è stata solo più 0,2% il terzo trimestre. Esattamente. Comunque, vedremo. Fatto sta che la promozione piena non c'è stata. Ma il punto di fondo che ti chiedo, non è che per caso l'Unione Europea adesso, con questa richiesta francese, in realtà approvata sul tamburo, di più spese fuori dal patto di stabilità per difesa e sicurezza, trova il suo moltiplicatore economico anticrisi esattamente in questa posta di bilancio? Ma vabbè, intanto è fin troppo facile osservare che Moscovici a sua volta è francese, quindi diciamo, mi riesce difficile immaginare che in termini così di prima risposta, se vogliamo di cortesia, se non ancora sostanziale, potesse dare una esprimersi in modo diverso, ecco. Detto questo, la tentazione probabilmente c'è anche da noi, però il punto mi sembra che è un po' quello che tu facevi osservare prima, cioè bisogna vedere come questi soldi vengono spesi, nel senso che... mi pare di capire che già possiamo dire che la richiesta italiana, che era quella di utilizzare lo 0,2% per la clausola migranti per abbattere le tasse alle imprese, la Commissione dice no. Ma quella si riservano di giudicarla ex post. Noi teoricamente sulla carta siamo il paese che più, e questo anche la UE lo riconosce, siamo il paese che, se si parla di emergenza migranti, abbiamo qualche titolo, diciamo, certo, a dire qualcosa. D'altra parte questo giudizio generale non aiuta, e quindi anche la questione della flessibilità sui migranti è rimandata a primavera, e quindi poi lì si vedrà se per caso si riesce a creare lo spazio per anticipare ancora con gli acconti fiscali che poi si pagheranno anche al 2016 la detassazione per le imprese. No, ma prima di arrivare ai numeri comparati, perché tu hai ripubblicato la tabella e quella è giusto riassumerla ai nostri ascoltatori, c'è una questione politica. Se anche noi ipotizziamo, anche il governo Renzi, come il governo francese, come l'annuncio già fatto dal governo britannico, che ha una disciplina meno intensa di controllo sul suo bilancio, come ovvio non fa parte dell'euro, ma detto questo, se anche noi diciamo benissimo, allora approfittiamo della nuova breccia nel patto di stabilità e anche noi spendiamo in più per la difesa e la sicurezza, stante che il governo Renzi l'ha confermato stamattina, non siamo dell'idea di partecipare a un intervento bellico, è un po' difficile poi chiedere i soldi nel mentre poi noi non mandiamo i nostri mezzi, i nostri aerei, i nostri uomini, come invece la Francia sta immediatamente facendo, e così via. No, non c'è una questione politica di questo tipo. Se si tratta di spesa militare è sicuramente così. può darsi che da noi qualcuno abbia la tentazione di dire ma noi comunque dobbiamo spendere per la sicurezza, nel senso di forze di polizia, intelligence. Queste cose qui, e quindi possa dire va bene, allora magari anche su questo ci possiamo togliere qualcosina. Per adesso non l'ha detto ancora nessuno, però vediamo. Allora, non lo escludiamo. Allora, un minuto di informazione sul traffico e poi ti chiedo, ma quanto spendiamo noi rispetto agli altri paesi europei? Di più, di meno, meglio, peggio? Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 primi. Allora sentiamo rapidamente intanto qualche telefonata sulla vostra opinione. Ma noi spendiamo abbastanza per la sicurezza? La percepite abbastanza? Sicurezza, polizia, intelligence, sorveglianza sui social e così via. E così vediamo le vostre opinioni rispetto poi ai numeri che ci dà Luca Cifrone del Messaggero, che è con noi, per vedere quanto spendiamo rispetto agli altri paesi europei. A quel punto, se spendiamo lo stesso, di più, se spendiamo anche meglio o peggio. Cominciamo con Mario che ci chiama da Napoli. Prego Mario. Buonasera Oscar. Buonasera. Salve, grazie per ascoltarmi. Dunque, la risposta è purtroppo drammaticamente negativa. Guardi, io qualche sera fa facevo una considerazione banale. Conosco un amico carabiniere il quale si lamenta del fatto che non ci sono i soldi nemmeno per portarli a sparare al poligono, cioè, per esercitarsi. Esattamente. Ora, ovviamente noi non stiamo parlando di difesa nel senso stretto di quella di strada. No, stiamo parlando di sicurezza, però se questi però se neanche se addestro. Così, voglio dire, insomma, di che stiamo parlando? Tra l'altro io credo che qui, più che andare a bombardare, che comunque può avere anche un senso se fatto come Dio comanda, e senza che ci vadano di mezzo innocenti, come al solito, anche se poi la cosa è molto difficile, eccetera, eccetera. Però io credo che sia molto, ma molto più utile lavorare bene diplomaticamente e curare la sicurezza interna. Ecco, la sicurezza interna. E di questo stiamo parlando. Poi Napoli, diciamo, rappresenta anche per le sue vicende di criminalità organizzata e numero di sparatori e morti ammazzati, ancora adesso, diciamo, la dimostrazione che siamo ben lungi dall'aver risolto efficacemente, quantomeno come affrontare con successo, ecco, quel problema in quella parte d'Italia, e non solo lì, ma lì, insomma, in particolare. Andrea, dalla provincia di Treviso. Andrea, come la pensa? Buonasera Giannino. Buonasera. Allora, a prescindere da quello che sono le scelte nella spesa sulla diciamo sulla difesa, con un mio pensiero su quella che è la legge di stabilità. Sì. Allora, noi abbiamo fatto una legge di stabilità che viene mandata in Europa e da lì viene, diciamo, rimandata a settembre, diciamo così, no? Ad aprile, sì. In realtà, sì. Diciamo così. Allora, se noi dobbiamo fare alcune scelte, in questo caso politiche, perché l'ha detto Renzi, l'ho detto proprio ai suoi microfoni, sì, che la scelta di abolire IMU e TASI è una scelta sua, politica. La rivendica, certo. E poi la mandiamo in Europa e questa scelta politica viene diciamo vista molto male. Allora, sì, se non possiamo neanche fare delle scelte politiche, a prescindere, non la penso come Renzi, anch'io avrei preferito un taglio di spesa sulla tassazione del lavoro, eccetera. Però una scelta politica di un paese non può essere... Però Andrea, lei difende il fatto che a questo punto ci diano i saldi, ma sul mix dei saldi e sulle misure decidono politicamente i governi nazionali. Questo è esattamente quello che dice Renzi, quindi esattamente questo. Anzi, lui l'ha detto anche brutalmente, non oggi, ma nelle settimane passate, dicendo non mi faccio imporre gli strumenti, il mix della manovra, dai burocrati di Bruxelles. Ha usato questo termine molto abrasivo rispetto ai commissari, ai membri della Commissione Europea, però questo è il termine che ha usato Renzi. Massimo dalla provincia di Vicenza, ancora? Sì, buonasera Giannino. Buonasera. Buonasera, io volevo dire due parole sul tema della sicurezza, sì, in particolare della sicurezza interna. Io non credo che in Italia si spendano pochi soldi per la sicurezza, probabilmente da una parte non si spendono nel modo migliore, nel senso che come abitualmente spendiamo troppo per personale, poco per investimenti. Esatto, bravo. Ecco, e il secondo tema è che secondo me molto spesso la forza pubblica realizza o ottiene dei risultati che poi vengono o da, diciamo, giudici che applicano la legge in modo un po' estensivo, oppure da un fatto che le leggi non sono adeguate. Allora, grazie Massimo. Il problema è che la sicurezza oggi ha una componente tecnologica di hardware e di software anche banalmente pagare quanto pagano le aziende, gli specialisti che si occupano di questa roba, se voi sapeste quanto vengono pagati quelli della unità centrale dei servizi che si occupano del monitoraggio tecnologico internet, vi scapperebbe da ridere. Però ecco, questo è quello che pensa un piccolo campione non rappresentativo di nostri ascoltatori. In realtà, Luca, noi quanto spendiamo rispetto agli altri, meglio o peggio dai numeri che si vedono comparati sulla sicurezza interna? Parliamo di ordine pubblico e sicurezza, noi spendiamo un pochino di più della, abbastanza di più della media europea, nel senso che mentre sulla spesa militare tradizionalmente, non avendo noi né testate nucleari né portaerei, insomma quasi, diciamo spendiamo un po' meno degli altri, sulla voce classificata a livello europeo come ordine pubblico e sicurezza spendiamo il 2% annualmente del PIL, che sono circa 32 miliardi, dove la media europea è dell'1,7, la Francia anche più sotto di noi, quindi spendiamo un po' più degli altri, ecco, diciamo. Ma è incredibile che la Germania è considerevolissimamente meno di noi, cioè 1,6, insomma, che è una bella percentuale in meno. Questi confronti internazionali poi hanno sempre qualche insidia perché c'è poi qualche pezzo non che non è comprato, delle specificità eccetera, però insomma ci dà un'idea, diciamo che non spendiamo poco, ecco, diciamo spendiamo non poco e probabilmente un po' più degli altri, ecco, questo possiamo dirlo con certezza. Anche perché ovviamente se uno paragona, io vedo che il dato disaggregato della delle sole forze di polizia, che è l'1,2% del PIL, sì. Se andiamo a vedere in Germania è quasi la metà, però c'è il piccolo sì. problema che probabilmente non comprende le forze di polizia locali, però non lo so. No, è general government la voce, esatto. È tutto complessivo, è quindi tutto credo, complessivo. Credo che le comprenda. Poi è pazzesco però che noi spendiamo di forze di polizia quasi il doppio della Germania sul PIL, avendo effetti non so quanto comparabili, devo dire la verità, perché da questo punto di vista non credo proprio che abbiamo degli effetti altrettanto comparabili. C'è quindi una questione di come spendiamo probabilmente, tu che dici Luca? Che al netto del fatto che ci può essere qualche elemento non comparabile, però dati questi numeri sostanziali è probabile che non spendiamo come dire nel modo più oculato, vuoi per il tipo di spesa, come dicevi tu la sicurezza passa sempre di più per sul web, in genere per l'informatica, la telematica, e quindi è chiaro che bisogna vedere che componente c'è di questo tipo, e poi perché la spesa non ti porto dietro i problemi generali della spesa italiana, cioè di non essere efficiente. Ricordiamolo a tutti, Luca, tutti i commissari alla spending review che si sono inutilmente succeduti nella storia avevano un capitoletto relativo alle troppe forze di polizia e di sicurezza che abbiamo nel nostro paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia postale, i forestali, eccetera eccetera. Ecco, questa è una delle chiavi per cui noi non è vero che spendiamo meno degli altri, però le abbiamo fatte proliferare perché era un ammortizzatore sociale. La sicurezza non è un ammortizzatore sociale nel mondo in cui viviamo, però come sapete la politica non ne ha mai voluto sentire parlare di fare una sinergia vera tra i corpi di sicurezza, e purtroppo questo significa spendere di più ma avere meno sicurezza tutti quanti. Grazie a Luca Cifoni, continuate con Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 insieme ad Alessandro Milan, attenti a noi due.